sono arrivati sprovveduti, dando delle segnalazioni, dei metraggi esatti di esecuzione, cioè non è che adesso dobbiamo modellare, facciamo quello che vogliamo. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. E anche di Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Alvise Falzoni in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ciao, ciao, come va? Bene, oggi facciamo il gioco della torre. Sì. Oggi li voglio tutti belli caldi, soprattutto i tifosi del Milan, ma non solo, perché è trasversale il discorso sulle grandi bandiere. 800-24-0024. Oggi abbiamo anche qualche minuto in più di trasmissione, però siamo qui fino alle 15:30. Oggi facciamo il gioco della torre e mi dovete dire chi buttate giù tra Paolo Maldini, che prende tempo sull'offerta di rientrare al Milan, e Marco Fassone, che per lui ha disegnato un ruolo. Poi mi dite cosa ne pensate, però insomma è un ruolo da direttore tecnico con competenze varie. Di sicuro non è un ruolo semplicemente di immagine, e da bandiera, che sarebbe stato offensivo per Maldini o per chiunque altro, fosse contattato. 800-24-0024, oggi facciamo il gioco della torre. Pier, da che parte stai? Secondo me invece qui la contrapposizione non è fra loro, perché Fassone potrebbe essere l'uomo che riporta Maldini a Milan, quindi loro due vanno messi, diciamo, in squadra insieme. Se vuoi scegliamo, può metterci dentro il vecchio Milan, se vuoi, come contrapposizione. A me non dispiace, a me non dispiace. Non sono d'accordo sul fatto che un semplice ruolo d'ambasciatore sarebbe stato offensivo, perché comunque, insomma, innanzitutto conta, gli ambasciatori contano. E poi perché Maldini comunque non è che in questi anni abbia avuto la possibilità di mostrare le sue capacità manageriali da nessuna parte, quindi nessuno di noi sa, è un po' come il discorso di Sarri quando andò ad allenare il Napoli, no? Che nessuno sapeva se sarebbe stato in grado oppure no. È chiaro che Maldini lo conosciamo, è una leggenda, un ragazzo molto intelligente, è una figura fondamentale e carismatica del Milan, ci sono visti da fuori tutti i presupposti perché possa far bene. Detto questo, non è un direttore. Però non ci sono certezze. Non ha un curriculum, ma perché semplicemente perché è alla sua prima debuttante. In questo tipo di mondo sarebbe un debutto. Quindi io sono curioso e spero che questa cosa si faccia, perché è molto intrigante da un punto di vista anche mediatico e di interesse. Però nella sua idea, che poi è quella che ha Paolo Maldini in queste ore, di volere un ruolo ancora più grande, un ruolo alla Leonardo nel Paris Saint-Germain, alla Galliani nell'attuale Milan, quindi amministratore delegato, comunque con delega totale alla parte sportiva, io credo che in questa sua ambizione, legittima, perché è sua, ci possa essere il dentro o fuori, tra lui e chi gli offre un altro tipo di ruolo. La suggestione è fortissima, ti faccio sentire Pier un'altra bandiera del Milan, Pippo Inzaghi, ieri a proposito dell'ipotesi di un ritorno di Maldini. In questo Milan c'è sempre stato Franco Baresi, che è una bandiera incredibile. So che sono fatti i nomi di Maldini, Albertini, Ambrosini, tutta gente che può dare tantissimo al Milan, perché sanno cos'è il DNA Milan, sanno cosa vuol dire vestire quella maglia, sono amati dai tifosi, per cui se quelle persone entrano in società possono far solo che bene. Paolo è un ragazzo straordinario e se tornerà al Milan saremo tutti felici. Questo Inzaghi, io credo ci sia anche una questione di tempistica, da quello che ho capito, Pier, nel senso che non è tanto il ruolo in sé che offre Fassone, che può non andare bene a Paolo Maldini, ma l'ha detto lui, l'ha detto alla Gazzetta dello Sport, l'ha detto ieri sera, nella dichiarazione rilasciata a Sky, è che lui andrebbe a lavorare con un ruolo teoricamente operativo e di comando in un'area tecnica già costruita. Forse le tempistiche non sono state ideali. Però dico anche che un tipo di soluzione ideale non c'è. Cioè non è che cioè io preferirei fare tiki-taka in prima serata a reti unificate, canale 5, Italia 1, Rete 4 Beh, con ma la 50. fai poco dopo la prima serata, No, no? va bene, ma dico con 50 redattori che Sì. scelgo io e un budget illimitato. È chiaro che nella vita qualche compromesso va fatto. Io credo che qui la notizia, la principale notizia è questa, che Maldini, che è una figura così straordinaria, può tornare a casa. E questa è una notizia grandiosa. Poi è ovvio che lui deve fare anche i conti, deve anche capire, soprattutto perché non è un semplice ruolo da ambasciatore nel quale va in giro alle riunioni UEFA piuttosto che nei vivai o a fare cose di iniziative benefiche, ma è un ruolo realmente operativo nel quale quindi si gioca molto, e chiaramente lui deve fare i conti e deve capire se il tipo di pacchetto che gli viene proposto lo soddisfa, e parlo ovviamente non di aspetti economici ma di aspetti operativi, di prospettiva di vita. Però questo voglio dire, è il tema che ognuno di noi quando riceve un'offerta di lavoro deve capire se vale la pena, quali sono i rischi, quali sono le opportunità, se la cosa gli piace, con chi lavora, se realmente avrà spazi per portare le proprie idee, oppure se rischia di essere invece messo in mezzo. Ecco, questo è un discorso vale per tutti, su qualsiasi proposta di lavoro che riceviamo. La notizia, ripeto, giornalisticamente e romanticamente, però è che viene richiamato, questo è molto importante. Secondo me Passone, da quello che ho capito, è a caccia di figure di questo tipo. Si rende conto che c'è in questo momento un gap, c'è cioè una distanza da colmare, e questi nel rapporto col pubblico, e chiaramente figure come Paolo Maldini possono dare la grande mano. Poi dopo le 14.30 raccontiamo anche qualche retroscena di quello che è successo ieri e nelle scorse settimane. C'è una seconda torre, abbiamo quasi il traffico, andiamo veloci. La seconda torre di oggi, ne abbiamo già parlato ieri, riguarda Balotelli. Adesso vi faccio sentire Bonucci. Per quanto riguarda Mario, è sempre stato detto che le porte per la nazionale sono aperte a tutti, e mi sembra che nella sua dichiarazione abbia anche dimostrato di cominciare a pensare come un adulto, perché alla fine quello che ha detto gli ha dato, dal mio punto di vista e sotto i miei occhi, una grandissima maturazione. No, sul tema Balotelli, la torre è questa, ma Balotelli merita di essere valutato semplicemente per quello che sta facendo, e quindi se merita torna anche a novembre in nazionale, oppure siccome è Balotelli con tutto il suo pregresso basta, grazie, gli avete dato troppe opportunità? Bonucci no. Mi pare che sia disponibile, forse anche i senatori della nazionale, però cosa ne pensate, Pier? Ma guarda, ieri abbiamo parlato per 40 minuti e adesso io chiedo una tregua su Balotelli, perché la squadra sta per giocare una partita importantissima contro la Spagna, che può essere la partita decisiva. In questo momento, francamente, parlare di Balotelli è quasi irrispettoso, secondo me, nei confronti di chi invece dovrà scendere in campo. Detto questo, Balotelli sta lanciando dei segnali importanti, gioca in un campionato che è un buon campionato, 6 gol in 5 partite, dei segnali di crescita ci sono. Mi pare chiaro che Ventura aspetti un po' più di continuità, l'ha detto chiaramente, in questa maturazione. Però le parole di Bonucci di ieri sono importanti, fanno notizia, aprono uno spaccato. Sì, ma confermano quello che ci diceva Cassano ieri, cioè che comunque non c'è nessuna pregiudiziale, ma è anche ovvio che sia così, perché Balotelli è un giocatore che quando ha dei picchi di rendimento alti può dare una grande mano, quindi non è che Bonucci o Buffon o Barzagli, sì, nessuno è così pazzo da tenerlo fuori a prescindere. C'è il traffico, ci fermiamo. 800 24 00 24, siete convocatissimi per decidere voi chi tenere nella torre e chi buttare giù dalla torre. Dopo il traffico abbiamo un grande ospite, un grande ospite. Tutti convocati. Qui è altro che ciupiti di Popovie. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Tutti convocati. Da quanto si legge e si sente dire, è stato interpellato e richiesto, e quindi credo che sia legittimo sapere con chi si avrà a che fare. Io credo che sì, il fatto che uno abbia militato per tanti anni e sia stato una bandiera di questo club sia indiscutibilmente importante, però altrettanto vero che poi c'è la competenza e soprattutto la persona e l'affidabilità che questa persona può avere, e credo che Paolo abbia tutte queste caratteristiche, quindi se questo accadrà sono felice per lui. Questo Donadoni è sempre sull'ipotesi di un ritorno di Maldini al Milan. Il tema è trasversale, l'abbiamo detto, abbiamo anche lanciato via Twitter, chiocciola tutti convocati, un'altra domanda, cioè quale bandiera della vostra squadra del cuore vorreste in società, vorreste rappresentarvi, vorreste nella dirigenza della vostra società? L'Inter a Zanetti, la Juventus a Nedved, però magari ne sognate qualcun'altra, magari sognate un ruolo importante per Totti se siete tifosi della Roma, o un ritorno di Antonioni se siete tifosi della Fiorentina, scrivetecelo, oppure 800 24 0024 per intervenire in diretta. Giuliano da Perugia, Giuliano. Buongiorno a tutti, grazie per la convocazione. Eccoci. Salve, molto brevemente, io sono un milanista della prima ora, nel senso che quando ero piccolino avevo il nonno con l'imposter del Milan con Schnellinger, Rivera e quant'altro. Non sono uno di quelli accaniti, però diciamo che dalla torre tendenzialmente darai una spintarellina a Maldini, però il concetto secondo me è effettivamente lui deve prendere i suoi tempi. La società secondo me non ha tutto questo tempo per aspettare chissà chi, e poi alla fine la domanda è una persona che comunque sia è in grado di sorreggere il carico che gli viene richiesto e di portare avanti poi magari in maniera corretta e giusta per far crescere questa società che secondo me si sta muovendo molto bene e comunque ha bisogno di tempo? Non lo so, ma questo non lo sa nessuno, Pier, è il discorso che facevamo prima. No, nessuno, fa parte dei rischi e delle opportunità che esistono, insomma, nel calcio, quindi non è che... Non lo so, io credo che... Come dicevamo prima, insomma, Maldini ovviamente ha un valore simbolico enorme, un'intelligenza indiscutibile come calciatore, come persona, però chiaramente siamo di fronte a un inedito, e quindi, siccome è un inedito, non abbiamo certezze, non ce l'abbiamo nemmeno con quei dirigenti che stanno lì da 30 anni, però almeno lì c'è qualche possibilità in più, c'è un po' più di storia. Qui siamo di fronte a un inedito assoluto, e quindi questo ci porta dietro questo elemento, diciamo, di ulteriore dubbio sulle sue qualità e su quanto potrà far bene. Sì, io credo che rischi di passare un po' come quello che non si accontenta mai. In passato era stato offerto un ruolo minore, certo. Questa volta il ruolo c'è, rischia di fare quella figura lì. Sì, cioè, è chiaro che quando prima ti dicevo, no, che non è che per forza anche un ruolo simbolico, anche un ruolo ambasciatore può essere un ruolo bello per un calciatore, nel senso che non è che per forza quando tu hai fatto una carriera da grandissimo calciatore, da fenomeno quale è stato Maldini o quelli come lui, sia automatico che poi ti debbano dare un ruolo altrettanto importante da dirigente. Quindi insomma l'anomalia sicuramente era quella di vedere un personaggio di questa importanza e di questo livello completamente fuori dal Milan, su questo non ci sono dubbi, però poi il ruolo non è che... anche perché il Milan ha una storia talmente grande che, con tutto rispetto per Maldini, che è un gigante, non è solo, cioè il pantheon di possibili futuri dirigenti. Se Milan dovesse dare un posto a tutti i giocatori che hanno fatto la storia, l'altra sera antichità che avevamo Capello, Sacchi, Ancelotti, Van Basten, Gullit, semplicemente di quelli che avevano accettato l'invito e che erano lì, Shevchenko, cioè Milan dovrebbe fare la squadra di dirigenti beati milanisti che se li sono goduti, però è chiaro che se dovessi dare un posto di lavoro oltretutto importante a ognuno di loro, a quel punto inevitabilmente ne servirebbero tanti dei ruoli. Fabio dalla provincia di Brescia. Fabio. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Buongiorno, allora, a te. Premetto, parlo in prima serata Reti Unificate tutta la vita, meglio del discorso del Presidente della Repubblica. Addirittura, Pier. Sì, sicuro. Allora, niente, ci mancherebbe. Scrivete allora, Mediaset, inutile che lo dite a noi. A me sembra che i milanisti del passato mi sembra che pretendano un po' troppo. Anche le dichiarazioni di Costa Curti di 2 settimane fa a me non mi sono piaciute. Poi Maldini, allora, per tornare al discorso, giù dalla torre Maldini, dato che non ha ancora dimostrato niente, mi sembra che abbia troppe pretese. Poi è una domanda, vorrei sapere da voi Galliani in futuro se verrà cacciato via o se avrà un ruolo, ma a quel punto qua se entra Maldini penso che Galliani... Guarda, questa risposta te la posso dare io. Galliani, se tutto va come sembra, quindi con il cambio di proprietà, con il closing e tutte le cose che stiamo raccontando, Galliani non avrà più un ruolo nel Milan. Non è previsto nell'organigramma. Posso dire, secondo me avrà... sarà pieno di gente che gli bussa la porta. Ah beh, certo, non avrà problemi ad arrivare alla fine del mese, però il ragionamento sul ruolo nel Milan è questo, cioè, ed è il ragionamento che fa, credo legittimamente, in cuor suo Fassone. Galliani è un capo, Ora, il capo azienda del nuovo Milan è Marco Fassone, poi ne discutiamo, qualcuno piace, a qualcuno no, per carità, ogni opinione è legittima, però lui è un capo e non è nemmeno immaginabile che Galliani resti e resti dovendo rendere conto a Fassone. O e io a penso che altro. Galliani, per il tipo di background che ha e per il tipo di qualità che ha dimostrato in questi anni, sia in grado di fare, avrà delle richieste sia dal mondo del calcio che da altri tipi di modo, perché Galliani ha avuto chiaramente competenze specifiche sulle televisioni, competenze specifiche sui diritti, cioè Galliani è un manager spendibile per tanti ruoli diversi, oltre che per quello tradizionale ovviamente di amministratore delegato o comunque di ricerca molto importante di una società di calcio, probabilmente anche per altre realtà sempre legate al mondo dell'entertainment, del divertimento, dell'intrattenimento. Insomma, Galliani può andare a fare il commissioner di leghe, può fare tantissime cose, quindi da questo punto di vista io credo che sia uno che non rimarrà a spasso, però anche a me risulta che insomma se il disegno andrà in porto così, chiaramente Galliani lascerà il Milan. Sì, le scelte sono diverse. Vi abbiamo chiesto che stella avete in mente, che bandiera avete in mente per il vostro club. Arriva qualche risposta interessante. Un tifoso della Lazio, Maurizio, che dice che Nesta sarebbe una figura politicamente corretta per la Lazio, oppure Di Cagno, ma quella sarebbe una scelta di pancia e da combattimento, oppure ancora Giampiero, tifoso della Juve, vorrebbe subito Platini a comandare la Juventus. Secondo me la Juve funziona già così com'è, però poi Piero Guidolin, direttore sportivo all'Udinese, oppure Cristiano Doni all'Atalanta, o qualche altro juventino che scrive: con Nedved siamo già rappresentati. Ilario dalla provincia di Verona. Ah sì, pronto, buongiorno. Eccoci. Buongiorno a tutti, grazie per avermi richiamato. Ecco, io guardando la figura di Maldini dentro e fuori dal campo, ma si deve dare in mano la parte tecnica assoluta a Maldini, dal comportamento che ha avuto sia in campo e fuori, quindi è una persona secondo me che può fare benissimo al Milan, anche se non ha fatto, se non ha esperienza propria di trattative, di tecnicamente conosce il calcio meglio di chiunque altro, di Galliani senz'altro, perché se guardiamo Galliani gli ultimi 5 anni ha fatto disastri con gli acquisti. Quindi io sarei propenso per Maldini, direttore dell'area tecnica assoluto. Sì. Sì, poi però guardate che per fare il mercato serve altro, non basta, diversi, non basta capire se un centrocampista è bravo o no, ai tempi o no. Sport diversi. Bisogna conoscere i procuratori, le regole, i club. Io capisco che chiaramente la popolarità, no, soprattutto quando la squadra non va benissimo come adesso, uno può dire, ma insomma, uno come Maldini è uno che sa di calcio, che probabilmente ne sa più di Galliani, nel senso che chiaramente l'ha vissuto da protagonista, però questo non basta, io sono d'accordo con te, cioè Galliani in questi anni ha dimostrato di essere un grandissimo dirigente, deve essere valutato ovviamente nei 30 anni, non lo si può valutare nei 6 mesi, lo si deve valutare nel complesso è probabilmente il dirigente più vincente della storia del calcio italiano, anche perché ha avuto chiaramente Berlusconi alle spalle, certi budget, nessuno lo discute, però ci ha messo anche pienamente del suo, quindi non c'è sempre una corrispondenza precisa fra la carriera di un calciatore e la carriera da dirigente, altrimenti basterebbe mettere a capo dei 5-6 club più importanti del mondo Maradona, Pelé, Maldini, non so, Batistuta, sarebbe facile, sono sport diversi e in quello sport lì, che è quello del dirigenziale, Galliani ha dimostrato secondo me indiscutibilmente di essere un fuori classe, al netto poi di alcune stagioni, le ultime soprattutto meno fortunate. E invece per quanto riguarda Maldini è tutto da vedere, è tutto da dimostrare, insomma è una sfida stimolante, ripeto, io sarei felice perché dal punto di vista certamente di anche giornalistico, di storia, di romanticismo, è una bella storia Maldini che viene a lavorare al Milan con un ruolo importante. Sì, è fin brutto che sia una scuola, una storia che già divide, perché credo che non sia quello il punto di partenza. Prima della borsa abbiamo Roberto da Torino. Roberto. Sì, ciao, buongiorno, grazie della convocazione. Eccoci. Io, a prescindere dal fatto che Nedved sta facendo un ottimo lavoro alla Juve, sicuramente da tifoso mi piacerebbe vedere Del Piero, il nostro capitano, in quel ruolo lì. Però è chiaro che con i contrasti che ha avuto con Nedved, finché c'è lui non ci sarà mai Del Piero, volevo dire solo questo. Sì, credo che sia intuitivo, Pier. Sì, credo che insomma Del Piero non... anche se poi mi pare che la situazione sia ricomposta, la Juve è consapevole di ciò che Del Piero rappresenta e Del Piero è consapevole di ciò che la Juve rappresenta per lui, per cui mi sembra che poi quel famoso dissapore che c'era stato e che poi aveva spinto comunque Del Piero a continuare a giocare, è stato credo ricomposto senza nessun problema. Però è altrettanto evidente che Del Piero un ruolo in società non l'ha avuto in questi anni, credo anche, va detto, stesso discorso di prima, anche perché quelli che ci sono adesso sono molto bravi. Cioè, oggi francamente andare a toccare qualcosa nella dirigenza della Juve mi sembrerebbe abbastanza folle, con tutto il rispetto per Del Piero che è un'icona oltre che un ragazzo intelligente. Quindi per Del Piero vale lo stesso discorso identico che facciamo per Maldini: sono bandiere, sono grandissimi giocatori e sono ragazzi intelligenti, quindi potenzialmente hanno tutte le qualità per poter far benissimo. La differenza però è che il Milan sta cambiando tutto, la Juve non cambia e francamente la Juve sarebbe assurdo che cambiasse, visto che il gruppo sta lavorando benissimo, Agnelli, Nesbitt, Barotta, Paratici, cioè cosa cambia? Sì, ma difatti il nuovo Milan ha cominciato a cercare quelli lì, cercava Paratici, cercava gente già pronta, qualche tifoso del Napoli vorrebbe Diego Armando Maradona subito e Amsic al ritiro, c'è qualche tifoso dell'Inter, ho perso il messaggio, che dice che servirebbe Bergomi come figura di raccordo nell'area tecnica. Scriveteci 349-238-6666 oppure 800-24-0024. Torniamo subito dopo la borsa. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Per ora non c'è veramente niente, rimarrà sicuramente un grandissimo amore, non solo mio ma da parte di tutta la mia famiglia. Io credo che sia il dovere per chi acquista da un paese straniero, che poi sia la Cina o l'America, non è assolutamente importante, sia dovere, diciamo, andare a vedere quella che è stata la storia del club che stanno acquistando. Io dico sempre, ho sempre ripetuto, che comunque il presidente di un club non lo può considerare suo. Un club come il Milan è dei, non so, adesso 8-10 milioni di tifosi che hanno nel mondo. Questo Maldini un mese fa, poi è cambiato tutto, i contatti, la storia che vi stiamo raccontando da ieri e che molto bene credo abbia riassunto poi ieri sera GB Olivero, collega della Gazzetta, che ha avuto modo intorno all'ora di cena di fare due chiacchiere, l'unico, con Paolo Maldini. Ciao GB. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Che Paolo hai trovato? Ho trovato il Paolo che conosco ormai da tanti anni, c'è un Paolo... molto lineare con le sue idee, molto, molto serio, molto chiaro nell'affrontare il problema e nel dire pane al pane, vino al vino, fondamentalmente. Cioè, ha capito Paolo che era arrivato il momento di fare un po' di chiarezza, perché di voci sul suo conto e non soltanto ne abbiamo sentite tante negli ultime settimane, negli ultimi mesi, e a questo punto, siccome poi d'altronde il Milan di tempo ne ha perso già parecchio, era giunto il momento, insomma, di fare un punto della situazione per spiegare, per evitare anche voci magari infondate o sbagliate, e per rivolgersi ai tifosi che magari vogliono sapere come stanno le cose, ma anche in modo ancora più definitivo alla nuova proprietà. Lui credo si sia anche reso conto di correre il rischio di passare per quello che non si accontenta mai. Ma io gli ho anche chiesto se non pensa che insomma ci sia quasi il rischio che una sua presa di posizione così dura non spinga anche la società a guardarsi altrove. Però lui ha messo davanti a tutto, e penso che dall'intervista si capisca abbastanza bene, il bene del Milan, e lui non sarebbe capace di fare il bene del Milan ragionando in modo diverso da quanto abituato invece a fare da sempre, da quando è nel mondo del calcio. Quindi lui ritiene di poter essere utile al Milan soltanto in un certo modo. È chiaro, lui stesso lo dice, posso essere considerato anche un uomo un po' complicato, però so che per dare il meglio, e il Milan in questo momento ha bisogno del meglio, io posso comportarmi soltanto in un modo e posso rispondere soltanto ai miei ideali e al mio modo di ragionare. Quindi se la proprietà è d'accordo, allora possiamo lavorare bene insieme, ma se c'è alla radice proprio una differenza di vedute, allora chiaramente non avrebbe senso. Sì, guarda, io mi sono fatto quest'idea anche chiacchierando con qualcuno che diciamo è abbastanza dentro questa vicenda, e cioè che il punto centrale sia nel metodo oltre che nel merito. Cioè, un conto sarebbe stato chiamare un mese fa, due mesi fa Maldini e dirgli: Paolo, ti voglio in un progetto, il tuo ruolo è questo, magari nemmeno troppo diverso da quello che viene offerto oggi, e digli: lo costruiamo insieme, scegliamo la squadra e facciamo questo disegno insieme. E un conto è oggi chiedergli di entrare con un ruolo che non è banale, non è, abbiamo detto, quello della bandiera, non è un ruolo semplicemente d'immagine, però dentro una squadra già costruita, chiave in mano. Ad esempio, c'è un riferimento al direttore sportivo. Io non credo che lui ce l'abbia con Mirabelli, però se lui deve essere il responsabile dell'area tecnica che non conosca il DS con cui dovrà lavorare, io credo propone qualche problema. Assolutamente, perché il rischio di così che i ruoli vengano un pochino a scontrarsi tra di loro è inevitabile, e lui lo vuole evitare. Lui vuole proprio che poi, quando inizieranno a lavorare insieme nella società, non ci siano anche questi problemi. Il Milan ne dovrà affrontare tanti per uscire dalla situazione attuale, per raggiungere l'obiettivo che poi è stato prospettato a Maldini, che è quello di tornare tra le prime 5 squadre del mondo. Quindi non ci possono essere anche dei problemi di gestione interna, visto che ci saranno troppe cose su cui lavorare. E poi Maldini mi specifica una cosa importante: ok, io sarei il direttore tecnico, ma dal punto di vista pratico cosa significa? Cioè, non mi hanno spiegato neanche questo, non mi hanno detto che cosa succede se io la vedo in un modo e Mirabelli la vede in un altro. E effettivamente credo assolutamente giusto che Paolo pretenda che queste cose vengano risolte prima di iniziare a lavorare. Hai avuto l'impressione che la chiacchierata evidentemente mirata, scelta di ieri sera, fosse una chiacchierata per chiudere o per, se possibile, aprire? No, io credo che Paolo abbia abbastanza chiaro che ora o mai più, cioè, se lui vuole tornare a lavorare nel Milan, e sicuramente vuole farlo perché lui vuole bene al Milan e si vede ancora con questi colori addosso, anche se ovviamente dietro la scrivania, questo è il momento, l'ultimo probabilmente momento a disposizione, perché ovviamente se poi la nuova società invece parte con altri uomini diventa più complicato rientrare tra un po', però lo vuole fare alle sue condizioni, che poi sembra una parola un po' brutta, un po' forte, ma in realtà sono condizioni di chiarezza, sono condizioni di libertà, condizioni che gli consentirebbero di fare al meglio il proprio lavoro. Però io credo che sia un messaggio di chiarezza e di conseguenza un messaggio di apertura, non di chiusura. Io credo anche che si possa dire, o almeno questo è quello che risulta a me, poi chiedo a GB che sicuramente ne sa di più, che se Paolo Maldini dovesse dire di no, la questione del rientro in quel ruolo sarebbe congelata, almeno temporaneamente, ma anche per una questione di opportunità, perché chiunque fosse chiamato il giorno dopo passerebbe come seconda scelta. Sì, infatti, non so Paolo cosa ti risulta. No, a me risulta questo, e anche a lui, nel senso che lui mi ha detto che è stato gli hanno detto che è la prima e unica scelta, cioè una scelta di alto profilo, perché Maldini, sappiamo tutti che cosa rappresenta per il Milan, e sicuramente è un personaggio che metterebbe d'accordo tutti. D'altro canto ha una personalità talmente forte, talmente delineata e poco malleabile, che rischia di creare dei problemi, tra virgolette, problemi che sono gli stessi che ha citato lui nell'intervista. Quindi è chiaro che è una scelta forte, una scelta intelligente, ma una scelta che poi a catena determina altre scelte, che sono quelle, le famose risposte che lui si attende dalla società. Grazie GB. Grazie a voi. Ciao. Grazie a GB Olivero, Gazzetta dello Sport, l'uomo che ieri ha raccolto i pensieri di Paolo Maldini. Siete tanti che ci state scrivendo su chi deve essere la bandiera della vostra squadra del cuore: Roberto Baggio per il Vicenza, Capello per la SPAL, Zico per l'Udinese, Gascoigne per la Lazio. C'è anche una provocazione: Paolo Dabinasco, sarebbe divertente fare il giochino inverso, cioè quale ex calciatore non potrebbe mai diventare un dirigente della vostra squadra, ad esempio Edmundo con la Fiorentina. Ma se volete misurarvi, 800 24 00 24, ci sono già Riccardo, Daniele, Nicola e Mauro. Dopo il traffico, spazio a voi. Tutti convocati. Poi si fa fatica, ragazzi. Convocati. Riccardo da Treviso. Riccardo. Sì, buongiorno e grazie della convocazione. Io sono juventino, lo premetto, però onestamente concordo con Pardo, nel senso che io, per esempio, Del Piero non è che lo vorrei come bandiera, nel senso bisogna distinguere, dato che le società di calcio oggi sono delle aziende, cioè quella che è la competenza in un'azienda da quella che è la storia di un calciatore. Se uno deve farmi l'uomo marketing mi va bene, però io ho bisogno del marotta o del professionista o di chi segue aziendalmente la società. Quindi Maldini, per carità, non ho nulla contro di lui, non lo conosco, però ha le qualità, chi, cioè, da cosa lo si capisce. È una scommessa, se no, Riccardo. Se no mettiamo Maradona a Napoli. È una scommessa, è una scommessa. Le società oggi sono aziende, però le società oggi sono aziende. Nel mondo, a livello internazionale, non vedo tante bandiere, a parte Bayern, dove comandano e fanno tutto loro. No. Barcellona, Real Madrid, hanno, quando presentano i calciatori, la bandiera. Beh, Butragueño ha un ruolo importante nel Real Madrid, probabilmente ce l'avrà qualcuno di questa generazione nel prossimo Barcellona, però è vero, però bisogna dimostrarlo sul campo ed è tutt'altro che scontato che chi è stato un grande campione possa anche essere un grande dirigente, soprattutto che lo possa fare immediatamente, Riccardo, dal primo giorno, e forse per questo la posizione di Paolo Maldini in parte è comprensibile, ma altrettanto comprensibile che non gli si possa consegnare la carta bianca che chiede per dirigere da solo l'area tecnica rispondendo direttamente alla proprietà e saltando quello che oggi piaccia o non piaccia il capo azienda del prossimo Milan e che è Marco Fassone. Daniele da Milano, Daniele. Oh, eccomi. Eccoci. Prego, allora, Daniele. Grazie della convocazione. Ma Pardo non c'è più o non c'è ancora? Pardo no, non c'è. Aia. Aia. No, perché volevo dire a Pardo che Maldini ha fatto 902 presenze nel Milan, cosa che Shevchenko, Gullit, Kakà e quelli che lui diceva che allora dovrebbero essere tutti al posto di Maldini. Mm. Probabilmente gli sfugge qualcosa. Ma no, lui però diceva una cosa diversa. Io adesso non voglio fare l'interprete di Pardo. Diceva Maldini è il numero uno, è certamente la prima scelta, è certamente la scelta più suggestiva, è certamente il Milan per quello che ha rappresentato. Ma se anche Maldini dovesse dire di no, il Milan ha un pantheon di possibili grandi campioni che potrebbero rappresentarlo, Daniele. Credo fosse questo il senso. Sì, però... ma Maldini credo che abbia anche la capacità di capire se un giocatore sia valido o meno, magari anche a 15-16 anni, 14 anni. Ed è lui è il Milan. Non è Shevchenko che appena visto ha sentito l'odore di due soldi e scappato come ha fatto Kakà, no? Mi pare. Sì, però potrebbero essere Maresi, potrebbe essere Albertini. Poi Pardo continua a parlare di Galliani, sì, dicendo che Galliani è il più grande di tutti, che non... Galliani è stato un fenomeno a comprare le figurine, perché Nesta l'avrei comprato anch'io. Chi non avrebbe comprato Nesta? Rui Costa? Tutti quei giocatori che lui ha preso, chi che ne avrebbe presi? Guarda, io conosco pochi direttori sportivi fare i fenomeni senza soldi. Fare i fenomeni e vincere, perché poi ci sono obiettivi diversi, c'è anche chi è un fenomeno, ma alla fine dell'anno non ha l'obbligo di vincere. L'organizzazione al Milan è andata alla fine, penso sicuramente a non Galliani. E poi sono veramente stufo di questi giornalisti che sono sempre in ginocchio davanti a Galliani, e se vuole faccio anche i nomi. Se non sono presenti puoi fare meno, se vuoi, ecco, criticare qua non abbiamo problemi. No, infatti non faccio i nomi, però li sapete anche voi, voglio dire. Vabbè, grazie Daniele. Nicola da Napoli. Nicola. Salve Nicola. Eccoci. Quando riguarda, volevo dire la mia, mister Sarri. Sì. Sarri un ottimo allenatore, grande allenatore, uno dei grandi critici sono stato io, come tantissimi milioni di tifosi napoletani, però mister Sarri deve fare una cosa, deve uscire la bocca dopo la partita, perché non possiamo alzare bandiera bianca dopo 5-6 giornate di campionato con una rosa altamente competitiva, come gente come Diabalà, che la Roma avrebbe fatto follie per prenderselo. Maximovic 30 milioni di euro, Giaccherini un ottimo campionato europeo, Gabbiadini il miglior calciatore italiano, tengo a precisare come attaccante, perché non ci sono attaccanti italiani bravi al di fuori di Gabbiadini. Basta. E le balotellate Belotti non ti piace? No, sta facendo male Belotti. Belotti è italiano, sì, ma sta uscendo. Come? È italiano. In italiano, sono dei capelli, stiamo parlando che Napoli in banchina c'è il signor calciatore e non possiamo alzare bandiera bianca dopo sei giornate. Abbiamo fatto una plusvalenza con Higuaín. Hai perfettamente ragione, secondo me, Nicola. Hai perfettamente ragione, compresi i limiti comunicativi di Sarri. Però io rilancio, il Napoli conosce Sarri oramai da quanto? 15 mesi, 16 mesi. Perché non dà voce anche a qualcun altro, un dirigente? Come fanno tutti. Perché nella Juve parla anche Marotta, perché nell'Inter parlano Ausilio e Zanetti, perché nel Milan parla anche Galliani, perché nella Roma parla anche Sabatini, perché nel Napoli deve parlare soltanto Sarri, che per di più è anche in difficoltà? A proposito di parole in libertà, vi faccio sentire, è interessante, Martina Colombari al Corriere della Sera a proposito delle parole di Ilary Blasi. Lei l'avrebbe fatto o no all'epoca con Costacurta, giocatore del Milan? Io non mi sarei mai permessa di intervenire nella sua vita professionale, nella vita professionale di mio marito. Detto questo, in casa ci possono essere discussioni, potevo commentare scelte dell'allenatore o della società, ma non mi sarei mai esposta. Primo, per rispetto di mio marito. Secondo, perché non ci capisco niente di calcio. E terzo, perché comunque se lo fai sai che ci sono poi delle conseguenze. Quindi, e insomma, questa è Martina Colombari a proposito di Ilary Blasi, della sua intervista. Abbiamo parlato tanto settimana scorsa. Mauro dalla provincia di Bari. Mauro? Sì, buonasera, grazie della convocazione. Dai, veloce perché c'è il GR. Sì. Premetto che sono milanista, contrariato tutti questi tempi, eccetera, eccetera, però io rivedrei, riformaterei, ristrutturerei i Galliani, perché secondo me dove ci sono i soldi, l'esperienza fa tanto, è di Marotta. E io controcorrente. Io la vedo difficile, no, lo capisco, però credo che sia uno scenario assolutamente impossibile da praticare. Ripeto, se tutto va come deve andare, quindi entro la fine del 2016 il Milan ha dei nuovi proprietari, Galliani non fa parte di quel progetto e farà qualcos'altro, non necessariamente lontano dal mondo del calcio, ma farà qualcos'altro. Ci fermiamo, c'è una piccola pausa, oggi ancora più piccola del solito, torniamo, vi raccontiamo altre storie, c'è Marino Bartoletti, andiamo in Inghilterra a parlare della settimana nera dei tecnici italiani. 800 24 00 24. Tutti convocati. Tra poco nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Das antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da... Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Sono le 15. Questa edizione di GR24 non va in onda perché è in corso un'assemblea della redazione. Il prossimo giornale radio alle 17. Cos'è stato? C'è qualcuno? Sono io, Dylan Dog. Quel Dylan Dog. E lui è il mio amico Grucio. Ciao, bello. Intenditrice, eh? E dovresti vedermi nudo a cavallo. Impazziresti per il cavallo. Piantala, Grucio, non possiamo. Siamo già in ritardo. Mi aspettano a Radio 24. Che cosa devi fare? Vogliono che racconti le 8 storie più emozionanti dei miei 30 anni di avventure. Ma quando ci risentiamo? Beh, su Radio 24 tutti i sabati alle 15. E quando vuoi, in podcast su radio24.it. Convocati. Oggi è stata la miglior prestazione della stagione, visto anche la forza dell'avversario. Oggi in campo c'erano 11 tori, come piaceva a me. Ho chiesto ai ragazzi, l'ho detto anche ieri in conferenza stampa, che dopo la vittoria con la Roma, oggi siamo chiamati a fare una prova di maturità e l'abbiamo superato perché si è visto il grande vecchio cuore granata. Non è facile alzarsi ogni mattina alle 4, 4 e mezzo e andare alle 6 a lavorare e fare tutto il giorno e non arrivare a fine mese. Questo non è facile. Facile, questo deve essere un piacere e deve essere contento e deve essere orgoglioso perché c'ha 22 anni, gioca nel Torino, è capitano del Torino, ha fatto pure gol perché è una persona fortunata come tutti noi che facciamo questo lavoro. A proposito di bandiere, chissà che un giorno Sinisa Mihajlovic non diventi una bandiera del Toro. C'è un amico che ha scritto Paolino Pulici, presidente del Toro a vita. Non so se Urbano Cairo, che saluto e ringrazio, è d'accordo. Presidente, buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio a voi. È d'accordo su Paolino Pulici o il Toro ha un presidente ed è meglio che si tenga quello? Ma non so, adesso dirlo io è difficile, no? Nel senso che essendo io presidente, però insomma Pulici è stato un grande giocatore, ha fatto benissimo al Toro, ha fatto grandi cose, ha vinto lo scudetto, capocannoniere, quindi siamo tutti, ricordiamo tutti con grande affetto Pulici, assolutamente sì. Anche poi lei, a volte fare il calciatore è una cosa, fare il presidente è un'altra, però insomma lui ha fatto molto bene quel che doveva fare. Certo, ma anche lei è affascinato da questo discorso che i grandi ex giocatori devono avere un posto nella società, non tutti, però quelli più rappresentativi. Ma io penso che sicuramente sia una buona cosa. Noi abbiamo per esempio alcuni calciatori, Comi è stato un calciatore magari non a livello di Pulici, ma è stato un calciatore cresciuto nel vivaio del Toro da quando aveva 10 anni e poi ha giocato nel Toro in Serie A, insomma ha dato un buon contributo ed è con noi come direttore generale. Quindi quello che conta è che ci siano diciamo delle cose che possono fare in maniera utile, in maniera positiva. Quindi io sono d'accordissimo che debbano rimanere nelle squadre in cui hanno giocato, militato, facendo bene, sicuramente. Ma sì, da manager imprenditore che si è costruito una carriera partendo da sotto, lei che consiglio darebbe a Paolo Maldini? Immagino abbia letto oggi i giornali. Sì, ma adesso l'ho letti molto velocemente, sinceramente il tema qual era? Maldini sul fatto di... Gli offrono un posto da direttore dell'area tecnica, gli offrono un percorso che magari lo porti anche a conoscere come funzionano l'UEFA, le grandi istituzioni. Paolo risponde: io voglio avere carta bianca, voglio poter parlare con la proprietà, voglio condividere il progetto, voglio di più. In realtà non è questo il senso, insomma, però dice: io ho un mio carattere, o mi fate fare le cose come dico io, oppure non so se posso servire al Milan. Ma guardi, diciamo che poi lì tutto dipende da quello che sente la persona, cioè per coinvolgersi in una squadra di calcio ovviamente ci vuole una grande motivazione e lui è stato un grande calciatore e ha fatto benissimo, quindi è molto importante che lui sia convinto, motivato. Poi il fatto di carta bianca sono sempre quelle cose difficili, no? Cioè diciamo che lui come dirigente deve farsi un'esperienza, quindi forse carta bianca la puoi avere una volta che hai dimostrato di essere un bravo dirigente, e quindi già il fatto di avere l'area tecnica non è una cosa piccola e il fatto di avere altre responsabilità non è una cosa piccola, però insomma sono cose che io sinceramente, non avendo neanche letto stamattina questo articolo relativamente a Maldini, non voglio dire delle stupidaggini, però secondo me credo che uno dipenda dalla sua motivazione, che è fondamentale, della prima cosa, e poi il fatto della carta bianca ti può arrivare successivamente avendo dimostrato di essere altrettanto bravo come dirigente rispetto a come eri come giocatore, perché sono due cose un po' diverse. Restiamo a Toro, le piace l'etichetta che hanno appiccicato a Mihajlovic di Simeone italiano, è il ciolo italiano nel senso che allena in Italia? Ma diciamo, guardi, secondo me Mihajlovic ha diciamo allo spessore le qualità per fondare una sua autonoma ditta, nel senso non essere il qualcuno italiano, no? E quindi lui deve essere Sinisa Mihajlovic, perché è un uomo di grande personalità, di grande carattere, di grandi capacità, e quindi io credo che lui possa essere semplicemente Sinisa, non deve imitare nessuno, ed è un uomo che ha tanta voglia di fare molto bene con noi, e io mi trovo molto bene con lui, perché è uno che ha grandi ambizioni, però è anche uno che rimane con i piedi per terra, e quindi avere qualcuno con il quale si può scambiare anche dei sogni, credo che sia una gran bella cosa. Sì, ieri ha detto che il Thor deve prendere esempio dal Leicester, che è giusto sognare. Io ne avevo parlato di questa cosa, abbiamo parlato domenica notte quando ci siamo sentiti. Quindi l'ha suggerito. No, ha suggerito. L'ha interiorizzato. Diciamo che lui evidentemente ce l'ha già dentro, però ne abbiamo parlato insieme, una cosa mi fa piacere che l'abbia detto. Non ho letto oggi i giornali così attentamente, quindi adesso faccio un ripasso. gliel'abbiamo detto noi. Mi fate la rassegna stampa. Presidente Cairo, quanto c'è del lavoro di Ventura in questo bel inizio di stagione del Toro? Perché molti tifosi del Torino, e lei lo sa meglio di noi, insomma, sono stati fortemente critici con gli ultimi mesi di Ventura, e io credo oggi non siano disposti a riconoscere nulla di quell'eredità. Io sono convinto che non sia così. Ma io pure credo che il lavoro di Ventura, ovviamente noi oggi stiamo giocando in maniera diversa, e dal punto di vista tattico e anche dal punto di vista di un certo tipo di atteggiamento in partita, però i nostri giocatori, alcuni di loro, quelli che erano con noi l'anno scorso, per esempio Belotti, che si sta rivelando molto importante per noi, che ha delle qualità risolutive notevolissime, se è diventato Belotti lo deve molto a Ventura, perché Ventura, io ricordo l'anno scorso quando Belotti inizialmente segnava poco, come era deciso nel tenere Belotti in campo, come era giusto che facesse. Quindi per esempio Belotti è veramente stato una grande creatura di Ventura. Poi Belotti ha i suoi meriti ed è capace lui ed è molto bravo lui, così come Benassi, che è stato un giocatore che Ventura ha molto appoggiato, anche in momenti in cui magari Benassi era un giocatore giovane che quindi aveva qualche inesperienza, per dirne un altro. Sì, con i giovani progetti bisogna avere pazienza. Sicuramente sì, così quella, come quella l'anno scorso è stata una semina. Sì, assolutamente. Quindi voglio dire, diciamo che c'è molto di Ventura ancora, poi è chiaro che con l'arrivo di Mihajlovic abbiamo cambiato modulo, e poi è cambiato un pochino da parte sua, perché lui ci mette il suo carattere, la sua determinazione, che è una determinazione diversa da quella di Ventura, che ne ha un'altra, che comunque ci ha portato a grandi risultati, e quindi in questo senso lui ha dato alla squadra un'impronta sua, che è quella più di aggredire, quella più di non far giocare, mentre invece con Ventura si partiva da dietro con una ragnatela di passaggi, che oggi invece è cambiata. Quindi insomma, secondo me c'è molto di Ventura, però c'è molto di Miaro, giustamente, perché ormai lui è con noi da alcuni mesi, sta facendo un grande lavoro e sta trasmettendo quel che lui è alla squadra. Sì, tanti scrivono: Belotti stava in campo perché non c'erano alternative. Questo lo dico io, non è vero, le alternative c'erano, i giovani bisogna avere il tempo di farli crescere, e questo vale per tutti ed è valso anche, credo, per il Torino degli ultimi mesi della scorsa stagione. Le rubo ancora un minuto, perché domani è una giornata particolare per Ventura. Certo. Lei lo conosce bene, le chiedo, da osservatore esterno, come l'ha visto in questi primi due mesi da CT? Ma diciamo che l'ho visto, sta cominciando a entrare in partita, perché come dire, il mese di agosto era un mese in cui, come dire, era più un mese di socializzazione, no? Poi invece adesso, insomma, quando cominciano a contare i tre punti, l'ho visto cominciare ad entrare in partita, ed è la cosa più importante, perché insomma lui adesso è molto importante fare dei risultati. Domani è una partita impegnativa, difficile. Io purtroppo non sarò a Torino perché sarò fuori Italia per impegni che ho, ma insomma da parte mia ci sarà un tifo a distanza, e faccio veramente un grande in bocca al lupo al mister Ventura, cui sono sempre molto legato, affezionato, e a tutta la squadra che faccia una gran partita. Sì, perché c'è chi l'ha visto tutti. Un po' sotto pressione, un po' in difficoltà a calarsi in un ruolo diverso. Ma no, ma non mi è sembrato, anzi, devo dire, da questo punto di vista l'ho visto rilassato, anzi a volte secondo me, no, io credo che sia che dal punto di vista della pressione lui la stia reggendo bene e abbia voglia di far benissimo. Io credo che sia entrato molto di più in partita in questo ultimo periodo, e adesso insomma abbiamo le partite importanti dove i tre punti contano, e quindi è importante fare veramente il meglio. Poi magari domani una mano gliela dà anche Belotti. Grazie presidente. Sicuramente, grazie a voi. Grazie a voi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a lei, grazie a Urbano Cairo, presidente del Torino. Fabio da Piacenza, Fabio. È caduto Alessandro dalla Spezia. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Visto che l'argomento è principale è stato Maldini, volevo spendere due parole. Sì. Ho seguito la carriera di Paolo da quando ha esordito a 16 anni a Udine fino all'ultima partita con la Roma, e quindi come persona sicuramente non si discute. E allora io mi domando questo, ma se lui vuole veramente entrare a far parte dell'area tecnica, che qualità avrebbe in meno di Mirabelli? Ma Mirabelli non potrebbe fare quello che già faceva all'Inter. Cioè Mirabelli non era il direttore sportivo dell'Inter, perché era ausilio, quindi dividere questo ruolo anche soprattutto per il carisma che ha Maldini. Un conto, un giocatore che si trova davanti Maldini e viene influenzato sicuramente dalla figura di Paolo, è un conto, con tutto il rispetto che possa avere per Mirabelli, che io assolutamente non conosco, rimarrei diciamo un pochino più titubante. Io credo che Mirabelli è venuto via dall'Inter, dove faceva il capo dello scouting, perché gli è stata promessa una prospettiva di una nuova carriera, di una promozione. Torniamo al discorso fatto prima del GR, cioè forse c'è stato un problema di metodo, di tempistica, e cioè coinvolgere Maldini con la squadra fatta, magari da persone che lui non conosce, che conoscendo potrebbe apprezzare ma che oggi non conosce, e quindi legittimamente si chiede: qual è il rapporto, quali sono i confini, quali sono i miei poteri, chi dice l'ultima parola su alcune scelte? Queste sono domande legittime, io credo, e a questo punto non si risolve certo immaginando per Mirabelli un ruolo diverso da quello per cui è stato strappato all'Inter. Parliamo di altre bandiere, dai! Battistuta al sesto del secondo tempo, Battistuta sblocca la situazione, porta in vantaggio la Fiorentina, ancora lui. Nessun tifoso della Fiorentina mi ha fatto due nomi, Antonioni e Battistuta, come possibili bandiere per rientrare in società. Magari Antonioni ci entra davvero, nei prossimi mesi potremmo saperne qualcosa. Battistuta è diventato cittadino onorario di Firenze. Mario Tenerani, giornalista, collega, amico di Battistuta, ciao Mario. Ciao, ben trovate. Ci racconti queste giornate fiorentine di Battistuta, che, lo ripetiamo, è cittadino onorario di Firenze. Devo dire, insomma, la cittadinanza onoraria di una città non si dà mai a caso, non si regala, e poi per Firenze comunque è qualcosa sempre di molto particolare, anche perché è ambitissima nel mondo. Sono state giornate molto emozionanti, al tempo stesso semplici, devo dirti, perché era palpabile proprio la sensazione della grande emozione, del grande amore e della riconoscenza nei confronti di un fuoriclasse che per 9 anni ha indossato la maglia della Fiorentina. Per me è stato un rarissimo esempio di squadra uomo e non di uomo squadra, e ha rappresentato la Fiorentina in Italia, in Europa e nel mondo. E lui è molto attaccato a Firenze perché qui sono nati 3 dei suoi 4 figli, qui ha una casa, qui un giorno vorrebbe venire a abitare, ha trasferito molta fiorentinità a casa sua, Reconquista in Argentina, perché ti assicuro che ci sono tanti libri della storia di Firenze, tanti quadri che ci riportano alla nostra città, e lui era molto emozionato perché ha detto: mi dato una grande responsabilità, da oggi insomma sento di essere l'ambasciatore di Firenze per quanto mi riguarda, le mie competenze del mondo. Quindi è stato tutto molto bello. Stiamo parlando di grandi bandiere che possono rientrare, che forse rientreranno, forse no, ma secondo te lui potrebbe mai immaginare di rientrare nella Fiorentina? Ma io credo che sia stato e sia un suo sogno però ha un carattere molto forte, ha un buon rapporto con la proprietà, però non andrà mai a chiedere niente. E ti posso dire una cosa, da giornalista che segue da vicino le vicende della Fiorentina, in questo momento fanno più comodo Battistuta Antonioni alla Fiorentina che non la Fiorentina a Battistuta Antonioni, così ci capiamo. Io credo che siano due giocatori molto rappresentativi e credo che Gabriel Batistuta potrebbe veramente svolgere un ruolo di ambasciatore politico tra virgolette per la Fiorentina in tutte le Americhe, quindi penso al Sud America, al Centro America o anche all'America del Nord. Io sono stato in Argentina e posso dire che davvero Batistuta è percepito come campione straordinario della Fiorentina, oltre a essere un personaggio di grandissimo prestigio che non ha difficoltà, voglio dire, a intessere relazioni o a riallacciarle. Quindi sarebbe una grande risorsa per la Fiorentina. Sarebbe facile dirti che potrebbe fare qualsiasi cosa la Fiorentina vista la sua sconfinata competenza calcistica, però proprio da un punto di vista dirigenziale. Però stiamo discutendo che serve anche altro, ne discutiamo per sì. Maldini, immagino anche per Batistuta, non basta la competenza calcistica. Certo, serve anche altro. E Antonioni è qua, peraltro Antonioni voglio ricordare che ha un ruolo importante in federazione, è capo delegazione dell'Under 21, quindi fa importante, chiaramente in testa al suo cuore c'è la Fiorentina, però ripeto, credo che in questo momento farebbero più comodo loro due alla Fiorentina che non la Fiorentina a loro due. È una provocazione la mia, ma così ci capiamo fino in fondo. Sì, beh, è quel rischio sottile di cui si parla da settimane, anche discutendo delle sorti del Milan, e cioè che questi nomi vengano poi agitati anche semplicemente dati in pasto alla gente per soddisfare una volontà. Grazie Mario. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie Mario Tenerani da Firenze. Facciamo il nostro punto col maestro Marino Bartoletti. Ciao Marino. Ciao, buongiorno a tutti. Last but not least. Però è difficile parlare di tutto quello di cui si è già detto, ma sono qua per questo. No, dai. Invece è semplice, perché noi è dalle due che chiediamo chi buttate giù dalla torre, ad esempio fra Maldini e Fassone, che poi è tra due filosofie, quello del manager e quello del campione. Tu ad esempio da che parte stai? Io ad esempio dico semplicemente, sottoscrivendo tante cose che ho ascoltato fino adesso, sinceramente, che è il Milan che ha bisogno di Maldini e non Maldini che ha bisogno del Milan. Maldini può continuare a vivere tranquillamente come ha fatto fino adesso, certamente con un po' di nostalgia per quella società a cui non soltanto lui, ma anche suo padre, ricordiamolo, ha dato tutto. Il Milan, se chiama Maldini, si deve in qualche modo, come dire, adattare a quelle che si ritiene che siano le sue esigenze. Quindi certamente bisogna trovare un compromesso, però credo che Maldini possa essere utile veramente a 360 gradi, fermo restando che il suo valore sul campo, che è quello della scrivania in questo caso, lo deve assolutamente dimostrare. Allora, o Maldini arriva da uomo e da manager contento e appagato, e credo proprio che non ne faccia una questione di soldi come qualcuno ha voluto ridurre in maniera un po' meschina, ma di ruolo, oppure ognuno resta dove è stato fino adesso. Ma tu che voto gli daresti? Che voto daresti all'intervista di Maldini di oggi sulla Gazzetta? 9. Io sono disarmato davanti a Maldini. Sono disarmato davanti alla sua onestà intellettuale e anche alla sua franchezza in questo caso. Oggi è vigilia d'Italia-Spagna, domani ne parliamo abbondantemente. Abbiamo selezionato un frammento delle parole di questi giorni di Ventura e poi voglio un voto da Marino Bartoletti, perché a me ha colpito questo frammento e soprattutto ha colpito quel numero che sentirete adesso Ventura dire. A livello di nazionale, come a livello di club, ma a livello nazionale di più, conta sempre e solo il risultato, quindi senza un problema. Se poi partiamo dal presupposto che per fare il risultato devi fare anche un certo tipo di prestazione, io rimango di questa idea e non credo che noi abbiamo la possibilità di giocare al nostro 60% e facciamo il risultato. È quello che invece se giochiamo al nostro 99, non voglio dire 100, niente ci è precluso. Quindi, quando dico 99 è riferito dal punto di vista fisico, tattico, mentale, eccetera, eccetera. Dunque, noi ci siamo innamorati a luglio di una nazionale che aveva un condottiero che diceva: bisogna andare al 110%, altrimenti noi siamo più scarsi degli altri. Questo era il manifesto di Conte. Il manifesto di Ventura è diverso. Diciamo che è più italianista, vogliamo dire così. Ventura ha sbagliato alcune cose secondo me dal punto di vista della comunicazione all'inizio di questo mandato, quasi con l'emozione di un ragazzino, lui che ha un anno più di me, quindi è una persona anziana, però mi sembra che in questo momento stia ritrovando la strada del venturismo e cioè della sua più totale coerenza. Io non ti so dire se avrei scelto o non scelto Ventura, ho avuto la sensazione che Ti ricordi quel film bellissimo, episodio in cui Nino Manfredi diventava re perché non sapevano, diventava papa, scusa, perché non sapevano che papa scegliere, e alla fine ne scelsero uno perché era vecchio e pensavano che avrebbe lasciato il campo immediatamente dopo. Beh, quel papa, che poi era Sisto V, regnò per 10 anni, ecco, io l'augurio che faccio a Ventura, a cui do 8. Ma si può vincere al 99% con la Spagna? Sì. Si può vincere tranquillamente. È anche sufficiente. Al 99%, perché comunque intanto dobbiamo capire che Spagna avremo davanti, certamente più forte rispetto a quella leggermente demotivata di quanto fosse quando l'abbiamo incontrata durante gli europei, ma guarda che il 99% è tanto, io credo che sono grandi quelle squadre che riescono a dare l'80, l'85 e il 90%, il 110%, il 120% ipotizzato da Conte era una pura utopia, credo. Sì, credo sia proprio una questione di approccio, di filosofia. A proposito di approccio, è diverso, e lo abbiamo detto e lo ripeteremo, temo alla noia, l'approccio di Ventura con Balotelli e in generale con la gestione dello spogliatoio. In tanti hanno storto il naso sentendo le parole invece di Balotelli. È un po' che manco in nazionale, ma era anche giusto che non fossi convocato in passato perché non meritavo, quindi... Come questa volta, io penso che secondo me è meglio che mi convochi la prossima volta invece che questa, perché voglio essere davvero al top. Marino Balotelli che dice questa volta passi, aveva ragione a non chiamarmi, ma è meglio che mi chiami la prossima volta. Cos'è? Arrogante? Non ha capito? No, no, dice una roba giusta. È un imitatore di Balotelli. No, era lui, non è il nostro Andrew Mercù, è lui. È il Balotelli che tutti abbiamo più o meno sognato, cioè quello che in qualche modo riesce a ricoltivare quel sentimento dell'umiltà che gli era completamente sfuggito. Io sono stato un balotelliano fino a che ho potuto difenderlo, e come tutti i genitori traditi, veramente mi sono arrabbiato moltissimo con lui per il patrimonio che stava buttando via e che non è detto che abbia ancora recuperato. Sentirgli dire delle cose che sfiorano la saggezza vuol dire che quantomeno, se non è limitatore, è sulla buona strada. Quindi gli diamo un bel voto alto. Sì, guarda, torno a dargli un 8 dopo essere andato sotto zero per 2 anni. Gli diamo l'8 con l'asterisco, perché aspettiamo di sapere cosa succede nel prossimo mese. E l'ultima storia è quella di un altro ragazzo giovane, che a me ha personalmente emozionato, ma credo a tanti, ed è quella di Locatelli. La dedica è per tutta la mia famiglia, è per mia mamma, mio papà, mio fratello Mattia e mia sorella Martina e tutti quelli che mi vogliono bene e hanno creduto in me. Io non ci credo, è il momento che aspettano tutti i bambini nella loro vita e credo che sto sognando, non devo ancora realizzare quello che ho fatto. Quando ho sentito il boato, ho guardato la palla che andava lì, non ci credevo, ho cominciato a correre ed era tutto vero. Questo è il miglior spot per il gioco del calcio. Ma hai assolutamente ragione, guarda, te lo dico da padre e da nonno, oltre che da giornalista. Un ragazzo che dedica il suo successo, il suo primo grande successo, al suo papà e alla sua mamma, non dimenticando i due fratelli, mi sembra che sia meravigliosamente anacronistico. Fammi aprire una parentesi sul fatto che se il Milan sta ritrovando la sua strada, al di là delle fortune, chiamiamole arbitrali, dell'ultima prestazione, ma il gol di Locatelli resta e non gliel'ha regalato nessuno. Beh, il grande Milan fu la fusione perfetta, lo ricordiamo, fra l'innesto di stranieri prepotenti, straordinari e meravigliosi e una base di settore giovanile in cui c'era anche il signor Maldini, il signor Baresi, tutti quelli che ricordiamo. Se il Milan ritrova veramente quella strada della fusione fra i giovani, e ne ha, Donnarumma, Romagnoli, Bonaventura, buona parte dei quali nati nel suo settore giovanile, Locatelli, beh, può darsi che il vecchio Berlusca, per quanto contumace, stia creando un nuovo format. Sì, c'è qualche germoglio, in tanti fanno questo parallelismo tra il Milan che ereditò Berlusconi, al di là delle vicende economiche, e il Milan che Berlusconi lascerà. Beh, guarda, vado a naso, ma mi sembra che domani sera giochino 4 milanisti in squadra, e sono tutti, quasi tutti, prodotto del settore giovanile. Io non so se questa è una volontà, un caso, una fortuna o qualcosa, però in qualche modo Berlusconi l'ha detto. E Dio volesse che veramente il calcio italiano si rigenerasse sulla fusione perfetta dei grandi campioni e non più degli stranieri comprati random. Sai, una volta quando ne compravi uno o due cercavi di azzeccarlo, adesso ne prendi 7-8 e cerchi di andare un tanto al chilo. Quindi la fusione fra i veri grandi campioni e i veri grandi giovani italiani ne potrebbe trarre vantaggio anche se non soprattutto tutto il movimento calcistico italiano, a cominciare dalla nazionale e per ora il Milan. Tanto lo sai, si andrà poi verso il mondiale a 48 squadre. Meraviglioso, magari ne parliamo settimana prossima. Ciao Marino, grazie. Ciao, un abbraccio. Grazie Marino Bartoletti, noi ci fermiamo qui, io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, torniamo domani dopo il GR delle 14, ciao. Have a nice day.